Investire informati. Mi ricordo che i primi di gennaio del 56 sono arrivato a Milano. E come diceva Gaber, con le scarpe da tennis. Io mi sono trovato all'inizio solo con due o tre altri, eravamo piccolissimi, ma soprattutto in quegli anni eravamo i soli. Si è fatto il primo sondaggio. Il Sole 24 Ore ha dato il primo sondaggio in cui ha detto: la doxa dice che sarà così. Ed era così. Allora, probabilmente non tutti l'avranno riconosciuta, questa voce l'avrà certamente riconosciuta invece l'ospite di questa mattina di Cuore e Denari. Abbiamo sentito, adesso ve la presento, quella che abbiamo sentito è la voce di Ennio Salamon, per molti anni presidente e amministratore delegato della società di ricerca e di mercato Doxa, nella quale fu coinvolto fin dai primi passi dal fondatore Pierpaolo Luzzatto Fegiz, suo professore universitario di statistica. Marina Salamon oggi è presidente di Doxa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie, perché la voce di papà mi commuove. Lo credo. Lo immagino, infatti, l'ho sentita prima della diretta, sì. Ma non le ho detto che le avrei fatto questa sorpresa. È una sorpresa felice, ho il telefono con lui un quarto d'ora prima. Questo video, sì. Tra l'altro, è tratto dal vostro sito, per cui lei l'avrà visto qualche migliaio di volte, però insomma probabilmente una riproposizione qui radiofonica fa un effetto diverso. Allora, tra l'altro non ci ha fatto invece anche a noi piacere invece questo riferimento dell'esito del sondaggio comunicato dal Sole 24 Ore, lui insomma con grande enfasi richiamava questo aspetto, perché insomma di autorevolezza in autorevolezza era importante che anche un importante organo di informazione divulgasse poi quelle che erano all'epoca i risultati delle vostre ricerche, ma quelle che sono anche attualmente, Marina, perché la Doxa ha 70 anni, è la prima società italiana di ricerca di mercato, ha un network internazionale consolidato e quest'anno proprio avete festeggiato, state festeggiando e celebrando i vostri primi 70 anni di storia. Un sì, compleanno sì. Impegnativo. Voglio dire, è una responsabilità più che oltre più che un festeggiamento, è il desiderio di portare avanti una storia italiana, e una buona storia italiana, e in questo ci sentiamo molto vicini al Sole 24 Ore che, come lei ha appena detto, già allora negli anni 50 era all'avanguardia nel utilizzare i dati statistici, quello che oggi si chiamerebbe big data, no? Lo facevamo già insieme per capire le abitudini, le opinioni, i comportamenti degli italiani. Allora, e noi, la storia continua. Certo, esatto. Abbiamo questa mattina scomodato in questa giornata di festa Marina Salamon, certamente per ricordare del compleanno della Doxa, ma soprattutto per parlare anche di come è cambiato in questi 70 anni il rapporto degli italiani con il mondo del denaro, con il mondo del risparmio. Però naturalmente non mi sono fatta mancare, Nicoletta, l'occasione per fare un bel domandone ai nostri ascoltatori, che adesso, quelli che sono a casa e non sono in giro per bancarelle, negozi a fare shopping, li invito subito ad andare a guardare sul sito della Doxa, perché voglio che controllino questa informazione. Domandone. Vai. Mettete le cuffie. Allora, era il 1946 quando il professor Pierpaolo Luzzatto Fegiz, che abbiamo citato poco fa, importò per primo in Europa il sondaggio a campione, messo a segno dall'americano George Gallup, scegliendo un nome simbolo per l'azienda che avrebbe fondato Doxa, appunto, che in greco antico significa opinione, e che in seguito sarebbe diventato appunto sinonimo stesso di ricerca di mercato. Ma a parte tutto quello che vi ho detto fino a questo momento, sapete qual è stato il primo sondaggio della Doxa? Raccontatecelo all'800 24 00 24, che è stato praticamente un sondaggio importantissimo per la storia d'Italia. E grazie poi a questo lavoro Doxa praticamente decollò. Marina, allora, la Doxa in 70 anni ha raccontato tutto, quasi tutto, dalla storia degli italiani. Come sono cambiati gli italiani in relazione al rapporto con il denaro? Noi abbiamo spulciato fra alcuni dei vostri bollettini, abbiamo scoperto tante cose interessanti. Certo, non dimentichiamo che le nostre prime ricerche, che erano appunto 70 anni fa e continuarono durante i decenni, fotografavano una società che era ancora molto rurale, molto agricola, in cui i risparmi si mettevano, si sarebbe detto una volta, sotto il materasso, no? Qualche volta adesso c'è pure la tentazione di tornare a dirlo, esatto, per la verità. Ci sono corsi e ricorsi della storia per un tema di sfiducia verso le banche. Però gli italiani oggi sanno bene che fino a 100.000 euro si è... E quindi, per esempio, tendono a diversificare quando investono nei conti online oppure nei titoli di Stato, e magari hanno più timore di altre forme di investimento come obbligazioni o azioni di cui possono intuire le fluttuazioni e la pericolosità. Mm-hmm. In generale gli italiani sono più preparati, più colti di una volta, e questo corrisponde anche ai titoli di studio acquisiti, anche se stiamo comunque attraversando una fase di timori sul futuro, per cui continua e si intensifica, mi verrebbe da dire, la sana abitudine italiana a risparmiare, infatti, ad accumulare ricchezza. Anche se qualche volta appunto questa confusione che regna sovrana nel mondo finanziario porta gli italiani a fare anche degli errori determinati anche non solo dalle preoccupazioni ma anche un po' dalla sfiducia nei confronti degli intermediari con cui si confrontano per fare le proprie scelte di risparmio e di investimento. Ma tornando ai nostri bollettini Doxa, ad esempio ho scoperto che fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, se si chiedeva appunto agli italiani a quanto ammontavano i loro redditi, praticamente un reddito di una persona mensile era di 31.000 lire, Nicoletta, pensa, per due o tre persone il bilancio familiare era di circa 45.000 lire, per una, un nucleo familiare composto da sette persone il reddito mensile di riferimento era di circa 70.000 lire. La Marina Salamon era un po' preoccupata perché diceva non facciamo le equivalenze con il mondo odierno, perché però... poi c'è stato tanto anche movimento e fermento dell'inflazione. Marina ha detto questo, però insomma magari possiamo coinvolgere i nostri ascoltatori nel fare l'equivalenza a quanto ammonterebbero queste cifre. Ci sembra peraltro di parlare di della preistoria, perché io facevo anche fatica questa mattina a proprio esprimere il concetto delle 31.500 lire. Non è che sia passati così tanti anni da quanto abbiamo fatto la conversione, eppure già ci sembra di vivere un'era nuova. Com'è cambiato il tenore di vita delle famiglie anche in rapporto ai redditi, secondo le vostre è cambiato analisi? Radicalmente, perché negli stessi anni, per esempio, pochissimi, parliamo di meno del 10% della popolazione, possedeva una lavatrice, che oggi per noi una lavatrice, se la si cerca con attenzione, equivale a una spesa inferiore certamente ai 300 euro, mm-hmm, no? Cioè riusciamo a trovarle tranquillamente a 250 euro. Allora si risparmiava per una lavatrice. E pochi anni dopo... Scusate, siamo in diretta, io raccolgo cani. Lo so, sappiamo questo di questa situazione. Faccio propaganda sull'adozione cani. Brava! Gatti, per ne chi ha ben vuole. Sei nella sua casa. Quindi, di Verona. Scusate, questa è una cagnetta adottata. Di recente, lo sappiamo. Allora, adesso chiudo una porta, vado avanti con i dati. Scusate. Allora, perché sono più silenziosi. O voleva dire qualcosa sulla lavatrice, ecco. Ecco, voglio dire, va bene, vado avanti. La televisione come obiettivo d'acquisto e status symbol sarebbe arrivata addirittura negli anni 60, non parliamo delle lavastoviglie. Quindi siamo in una società in cui la casa e il risparmio per la casa da acquistare e o da arredare era il focus delle preoccupazioni. Certo. Oggi, in una sharing economy, la scala dei valori e delle priorità è cambiata. E infatti in cima alle preoccupazioni delle famiglie italiane oggi magari c'è anche ad un certo punto la lavatrice, ma direi che in primo luogo c'è il futuro dei figli. Brava. Marina. Certo. Che cosa dicono le indagini Doxa più recenti su questo? Beh, le indagini Doxa testimoniano una, come dire, preoccupazione diffusa rispetto a grado di autonomia finanziaria conseguente alla possibilità di lavorare con una sicurezza e dunque risparmiare, che si esprime su figli e addirittura nipoti, per cui sono le generazioni precedenti che come dire, tengono per mano e aiutano economicamente le generazioni più giovani. C'è uno strano rispetto ad altre economie occidentali, trasferimento di risparmi e di ricchezza, che per il quale è la famiglia tutta intera che in qualche modo sostituisce lo stato sociale. Certo. A proposito di onesti, dunque abbiamo una situazione di maggiore capacità di risparmio e stabilità in coloro che sono i pensionati più sereni, minore nei giovani, ma questo lo sapete più di me anche. Infatti lo raccontiamo, dobbiamo testimoniarlo ogni giorno, sperando naturalmente anche qualche volta di commentare questi aspetti economico-sociali anche positivamente, proprio per non trasferire tutta la nostra devastazione emotiva nei confronti dei ragazzi. Un'ultima domanda, Marina, poi ti lasciamo. La famiglia si deve far carico di molti problemi e anche naturalmente di tutte le preoccupazioni legate al futuro di figli e nipoti. Sulla famiglia grava anche un'altra responsabilità che viene sollevata da molto tempo a questa parte, quella dell'educazione finanziaria, che in Italia sembra essere quasi completamente a carico appunto dei genitori sui figli. Anche questo è l'oggetto di una vostra indagine recente condotta per la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Cosa avete scoperto, se ce la facciamo in un minuto? Certo, ma abbiamo scoperto molte cose interessanti su questo. In realtà i ragazzini sono molto più preparati di quello che avremmo potuto dire. I ragazzini a cui viene data una paghetta, per esempio, in una percentuale piuttosto rilevante, sanno o desiderano risparmiare, mettere da parte. Sono dei consumatori piuttosto consapevoli che sanno paragonare i prezzi e analizzare le possibilità d'acquisto online e le mescolano coi consumi reali. Il 92% dei ragazzi che possiede del denaro lo risparmia, addirittura. 57% ha un salvadanaio in casa, che io ritengo sia un principio sacro per un ragazzino fisico, reale. Il 28% lo tiene su una carta ricaricabile. E il 27, in realtà sono dati che si sommano, perché può essere che un ragazzino abbia un po' di denaro nel salvadanaio e un po' lo affida ai genitori, il 27% lo affida ai genitori. Siamo ai principi dell'educazione finanziaria, in cui, tema su cui io invito le famiglie e da donna, in particolare le donne, a non vergognarsi di occuparsene, perché ritengo sia la base della nostra dignità e autonomia. Bene, con questo messaggio che noi raccogliamo sicuramente molto volentieri, ringraziamo Marina Salamon per essere stata con noi. Io fra un po' darò il risultato del nostro quizzettone, cioè non lo do io, in realtà ci sono molti ascoltatori che sono pronti naturalmente. Possiamo, ma avete fatto qualche volume, Marina, per questi 70 anni di Doxa? Qualche iniziativa editoriale speciale? No, non abbiamo pubblicato libri celebrativi apposta, abbiamo fatto molto lavoro online, ci riserviamo di raccogliere questi dati storici. Io poi ho studiato storia, per cui penso siano pagine di storia economica e sociale contemporanea, più avanti, ma abbiamo aperto gli archivi alle università. Bene. Stiamo raccogliendo tesi di laurea e giovani interessati a capire, perché ci sembra un patrimonio da non tenere privato. Assolutamente no. Grazie allora, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Cuore e denari. Allora, vi invito a descriverci, spiegarci da quale continente arriva questa musica, Nicoletta. Vediamo un po'. Dai, vabbè, allora, cinese non è. No, dai, diamo delle indicazioni, avviciniamo. È a sud nostro. Ecco, un po'. È un altro continente giù, a sud di quello europeo, più fa, non so cos'altro poter dire. Vabbè, è musica africana, dai. È musica che arriva... Allora, Marco Lombardo dice che l'ha trovata quella che arriva dallo Zambia. Se è vero, non lo so, potrebbe dirci qualunque cosa. Però. No, guarda, lo vedo invece è vero? Lui è tranquillo e contento e quindi però ricordatevi, sa quello che dice. Ricordatevi che abbiamo anche il domandone da fare, perché c'è l'ascoltatore che ha risposto, quindi fra un po' rimandiamo anche quello. Però introduciamo il tema che andremo ad approfondire oggi. Insomma, questa benedetta educazione finanziaria, abbiamo parlato a lungo un po' con Marina Salamon poco fa, è sempre sulla bocca di tutti. La studiano i grandi organismi internazionali, ne parlano ormai praticamente anche dal panettiere al bar qua vicino. Tu quanto ne sai di azioni, obbligazioni, del tasso di interesse composto, tutti i maestri, tutti i commissari tecnici di calcio, sono tutti medici, tutti allenatori, tutti sanno e tutti dicono esperti. Che noi non sappiamo, quindi il tema è del tante sfaccettature su di noi passi, ma anche gli esperti vengono a volte messi in croce esatto. Allora, insomma, noi proviamo a riderci, ma non c'è tanto da ridere sulle nostre conoscenze, quelle degli italiani, che sono bocciate continuamente. La Consob già poco fa ha partorito una fotografia che ancora una volta è impietosa sulle nostre competenze, ma adesso a quanto pare ci battono anche Togo e Zambia, come ha avuto modo di appurare il nostro consueto inviato speciale nel mondo delle curiosità finanziarie, Enrico Marro, che salutiamo, collega della redazione online del Sole 24 Ore. Enrico, buongiorno, ben ritrovato. Ciao. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Ti faccio salutare anche da un altro collega del Sole 24 Ore che è qua seduto accanto a me. Se ti faccio riconoscere la voce, vuoi salutarlo? Ciao Enrico. È Vitaliano D'Angerio, plus 24 del Sole. Ciao Vitaliano. Ciao, ciao. Allora, Enrico stamattina lo abbiamo scomodato perché lui per conto nostro è andato invece a indagare in una ricerca che è stata diffusa di recente, condotta da una prestigiosissima istituzione finanziaria che ha sede a Washington e che è presieduta da una grande amica di Cuore Denari, scusami Enrico, io però ci tengo a dirlo, che Anna Maria Lusardi è stata da noi. È venuta anche al Salone del Risparmio, brava. Molto simpatica. Per anche. Cui, ecco, siccome anche lì da questo centro il Globe Financial Literacy Excellence Center della George Washington University, qua io l'ho detta tutta l'inglese, però il centro è veramente è il centro mondiale che studia proprio il grado di educazione finanziaria in tutto il mondo. Ho fatto questo veloce biglietto da visita dell'amica Anna Maria Lusardi, appunto perché ci tenevamo, perché è venuta anche da noi. L'ultima indagine, Enrico, che cosa racconta a proposito soprattutto dell'Italia? Questa indagine è recentissima, ma è l'ultima disponibile, fatta appunto da Maria Lusardi, dalla centro della George Washington University, assieme a Banca Mondiale, Standard & Poor's e a Gallup, racconta che noi in fatto di educazione finanziaria siamo più arretrati, a quanto pare, del continente nero, di cui abbiamo sentito la musichetta in apertura. L'Italia, secondo questa indagine che è stata condotta su un campione sconfinato, 150.000 adulti di 148 paesi, è arrivata al 63esimo posto nella speciale classifica sull'educazione finanziaria dietro nazioni come Senegal, Benin, Togo, Zambia e Madagascar. E pensare che gli americani si erano molto scandalizzati e indignati quando hanno scoperto di essere arrivati in questa classifica solo al 14esimo posto dopo Singapore e Repubblica Ceca. Noi siamo stati particolarmente infelici. Quindi ci siamo rinchiusi in religioso silenzio in questo 63esimo posto. Incassiamo bene, dai, almeno. Incassiamo bene. I temi tutto sommato esatto erano... perché il punto è questo, no? Ma uno si chiede anche, ma che domande mai avranno fatto per accertare che siamo così arretrati e impreparati? Eppure le domande, Enrico, risultano essere tutto sommato abbordabili, no? Assolutamente, erano delle domande abbastanza basic su inflazione, interessi composti, diversificazione finanziaria. Solo il 37% degli interpellati italiani è stato in grado di rispondere correttamente, mentre pensate che in Norvegia, Danimarca e Svezia si è toccato il 71%, in Gran Bretagna il 67%, in Germania il 66%, negli Stati Uniti e in Svizzera il 57%. Nella Grecia il 45, nello Zambia il 40, in Italia il 37. Vabbè, insomma, all'africano. La buona notizia è che abbiamo solo da rimontare, quindi esatto. Abbiamo tanto cammino da esatto. fare sì. per vedere il bicchiere no, mezzo vuoto. Su Plus avevamo mezzo fatto una proposta noi un paio di numeri ricorda, fa. Ricorda, ce la va sì, italiano. In sostanza, noi abbiamo un po' ricordato il maestro Manzi, no? Che ha alfabetizzato l'Italia. Certo. Non è mai troppo abbiamo tardi. Proposto a Amadeus di fare un quiz sulla di finanza, di educazione finanziaria. Lui era d'accordo, sì, se la Rai vuol fare un format, lui è pronto per fare un quizzone la sera sulla finanza, in modo tale da renderlo quanto più popolare e basic, perché altrimenti non passa. No, infatti, altrimenti. Non c'è. Lui era d'accordo da su questa cosa. Sai poi quando, te lo dico io, quando bisogna piazzarlo? A Sanremo, quando c'è Sanremo, quando c'è il numero massimo di ascolti della popolazione italiana, gliela butti lì a bruciapelo. Ah, è l'unica. No, vabbè, però non lo so. Adesso, detto questo, io stavo pensando un po', ma se uno ti chiede, sai che cos'è il tasso di interesse composto? Cioè, ma anche qui, che cavolo di domande, perché dovremmo sapere questa informazione? Non so, Vitaliano, ci vuoi rispondere tu? Ma guarda, io vedo la striscia negativa di scandali finanziari da inizio 2000 a oggi, e al di là delle domande di educazione e di finanziare le risposte, è quello che mi preoccupa, perché c'è una questione proprio di ignoranza finanziaria, ovviamente, e che ha provocato questi disastri. Mm-hmm. Perché uno deve comprare dei bond Parmalat, dei bond Shirio? Perché rendono tanto e le persone guardano a quello, invece gli si deve invece insegnare di comprare che, dei prodotti in cui ci sono tante uova e non soltanto, certo, non soltanto una, insomma. Posso dire due, che anche il termine, non per naturalmente contraddirti, però qualche volta anche noi dovremmo sforzarci un po' di più, in realtà qua non compriamo, sottoscriviamo delle soluzioni di investimento che sono il nostro futuro, il nostro sudore quotidiano anche sul lavoro, per cui anche lì forse utilizzare un gergo diverso quando ci si approccia al mondo del risparmio dovrebbe essere una battaglia, una battaglia contro l'inglese finanziario, perché bravo. È veramente devastante parlare in inglese finanziario, non in inglese, in inglese finanziario, proprio sembra una lingua esoterica. Benissimo, allora invece non è niente di esoterico il traffico che andiamo a sentire, chiedo un minuto di pazienza ad Enrico Marro, poi andremo di nuovo a Vitaliano perché ci anticipa la storia di copertina di Plus 24 di questo weekend, che è molto interessante. Anche qua attenzione a come sta volando il mercato americano, perché non vorrei che qualche sorpresa fosse dietro l'angolo. A tra poco. Cuore e denari. Immacolata ha interrogato questa mattina. Allora, il nostro rischiatutto stamattina prevedeva, prendendo a spunto il compleanno della Doxa, di cui abbiamo parlato ampiamente nella prima parte della trasmissione, facendoci raccontare dalla presidente Marina Salamon come è cambiato l'approccio degli italiani al risparmio e al denaro in questi ultimi 70 anni. E allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se sapessero quale fu il primo sondaggio condotto da Doxa, era il 1946. Lo sa Pietro da Roma? Buongiorno Piero, anzi... Piero? Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Qual è stato il primo sondaggio della Doxa nel 1900? Se non ricordo male, dovrebbe essere stato quello del 2 giugno del 46, in occasione del referendum tra monarchia e repubblica. E si ricorda bene. Si ricorda bene. Bravo, come Piero. Mia figlia diceva quando era piccola, ma papà è un sapone, perché sapeva tanto. E volevo, se me lo sentite, volevo aggiungere una cosa. De Gasperi, che come voi sapete è stato presidente del Consiglio dei Ministri dal 1944 al 1952 ed ha retto ben 7 diversi governi che si sono susseguiti in quel breve periodo. Esatto, infatti, uno via l'altro. Non era sicuro che avesse vinto la Repubblica fino a 2 giorni dopo, perché come lo spoglio sapete, dei voti era un po' sapete, più lo dovreste ricordare, per parecchio tempo si disse che ci furono dei brogli e ancora oggi molta gente ritiene che ci siano stati dei brogli elettorali che abbiano fatto vincere la Repubblica invece che la monarchia. Piero, lei è adorabile per averci fatto fare questo tuffo nel passato che ci richiama tanto anche ai giorni nostri. Grazie, allora vedremo di trovare un testo per lei nella nostra libreria adeguato alla sua preparazione. Ci scrive anche Tiziana da Torino, che ci ha risposto appunto al quizzettone. Ha fatto fatica a comporre il numero verde questa mattina, dice che non le abbiamo risposto, aveva trovato qualche problema, però la risposta c'era giusta, allora guardi Tiziana, glielo mandiamo anche a lei, molto volentieri. Torniamo a noi, a Enrico Marro e a Vitaliano D'Angelio. In realtà abbiamo 4 minuti di tempo prima dei saluti. Enrico, l'educazione finanziaria, noi siamo al 63° posto a livello mondiale sulle nostre competenze. Altre curiosità legate a questa indagine, ci sono delle differenze di genere, differenze legate all'età, quali sono i risultati che non ti aspetti? Ma c'è sicuramente una grande differenza legata alle risorse economiche, cioè per quanto riguarda l'Italia in particolare, la ricerca ha confermato che chi ha maggiori risorse economiche conosce meglio i fondamentali della finanza rispetto a chi è più povero. Se interpelliamo il 60% degli italiani più agiati, questi mostrano un'educazione finanziaria superiore, e cioè hanno risposto correttamente il 44% contro il 37% medio a questo test, ma se rispondere è invece il 60% di italiani meno ricchi, ecco che la percentuale precipita dal 37% medio, si scende al 27%. Poi c'è qualche differenza naturalmente di genere, cioè in alcuni paesi, in buona parte dei paesi, il gentil sesso è leggermente più in difficoltà del sesso forte su materie finanziarie, però esistono alcuni paesi, curiosamente la Cina e il Sudafrica, in cui il gender gap è azzerato e i due sessi ottengono gli stessi risultati. Incredibile. Enrico, dobbiamo salutarti perché devo dare la parola nei nostri ultimi due minuti a Vitaliano D'Angerio. Grazie, presumibilmente ci sentiamo giovedì prossimo o comunque al più presto. Buona giornata. Grazie a voi, buona Eccoci giornata. Qua. Vitaliano, andiamo allora alla storia di copertina di Plus 24. Raccontaci un po' cosa avete scoperto sul mercato americano. Noi con grande enfasi raccontiamo che ogni giorno si tocca un record dietro l'altro. Ieri è stato toccato il 12° dall'elezione di Donald Trump, ma insomma adesso cominciamo anche a prendere le dovute misure dal mercato azionario a stelle e strisce, perché non vorrei che avesse corso un po' troppo. Sì, ce ne occupiamo come cornice, come quadro generale, perché ovviamente quello che succede in America poi ha dei riverberi, dei riflessi in tutto il mondo. Niente, ha superato il 2020 l'S&P, ma soprattutto mi facevano notare dei consulenti che ho sentito che la percentuale del debito delle aziende americane sul PIL americano ha raggiunto il 45%, fonte Fed. Questo vuol dire è lo stesso livello che aveva raggiunto ai tempi di Lehman e ai tempi della bolla high tech di inizio 2000. Ecco. E quindi qualcuno dice, quindi senza saper leggere e scrivere, ecco, mi svuoto il portafoglio. Detto questo, il portafoglio di azioni. Detto questo, noi ci occupiamo soprattutto dell'Italia, delle società italiane che hanno più debito, il che non vuol dire che è un male in assoluto, a tutt'altro, perché l'aumento dei tassi di interesse ovviamente ha degli effetti sul debito, e noi spieghiamo perché, che conseguenze ci sono, certo, negative e positive. E intanto, a proposito di tassi, aspettiamo invece le decisioni che prenderà oggi Mario Draghi. Cuore e denari termina qui, però noi domani ritorniamo, niente, certo, ponte, neanche mezzo ponticello, siamo strada dritta qua, sempre in diretta. Vi aspettiamo, a domani alle 10:30. Giornata.